Un libro tira l'altro, di Salvatore Carrubba. Buongiorno cari amiche e cari amici, oggi puntata essenzialmente milanese, legata soprattutto a due appuntamenti molto importanti di natura culturale. Il primo è l'apertura della stagione alla Scala, che avrà luogo domani sera, anche se quest'anno la stagione apre con un'opera straniera, con la Carmen di Bizet. Vi segnalo il libro di Lorenzo Arruga, in questa occasione il teatro d'opera italiano, Una storia, è pubblicato da Feltrinelli, 400 pagine, 19,50 euro. In questo libro andiamo dalle origini remote dell'opera lirica, che Arruga colloca all'epoca della Camerata dei Bardi e quindi alla fine del Cinquecento, fino a oggi e anche al futuro. Arruga infatti cerca di individuare quelle che possono essere le prospettive di un'espressione artistica così intimamente legata alla cultura e all'identità italiana. Nel libro non si parla solo di musica, ma anche dell'ambiente teatrale, di ciò che la lirica, i suoi luoghi hanno rappresentato. Si parla dei suoi miti, i cantanti, i compositori, gli esecutori. Si parla del ruolo sociale che l'opera ha svolto nel cambiamento, nella trasformazione del nostro paese. L'opera si rivolge a tutti, è scritta con brio e competenza, e su quest'opera rivolgiamo ora alcune domande all'autore. Buongiorno a Lorenzo Arruga. Buongiorno. Il suo libro è dedicato al teatro d'opera italiano. Ecco, che cosa rappresenta l'opera lirica nella cultura e nell'identità culturale del nostro paese? È domanda impressionante, perché è una realtà che sta nell'animo e nelle abitudini e nella conoscenza di tutti in qualche modo, in modo diverso per tutti. Per la passione, per altri è la scoperta della totalità del sentimento, delle ragioni morali, per altri ancora è un ricordo di famiglia, una serie di citazioni che vengono tramandate di pezzi di librette, di pezzi cantati. Per tutti è un incontro con qualcosa che sta nel DNA quando c'è l'occasione di viverla. Ma oggi l'opera riesce a trascinare le masse? Lei stesso in fondo nel suo libro scrive: gran parte della musica impegnata si è staccata dalle esigenze più immediate, abbandonando l'ascoltatore medio incapace di seguirla all'esperienza del passato da rivivere oppure alla nuova produzione commerciale di facile consumo. Ma una volta si faceva l'opera sugli interpreti che c'erano, sulle esigenze teatrali, spettacolari, sulla voglia di inventare. E adesso invece l'opera è una specie di prodotto griffato da parte dei musicisti che hanno maturato il loro senso della musica altrove, in altre scoperte, in altre pulsioni, in altre noie, anche sempre di sapore un po' scientifico avvenirista. Difatti l'opera contemporanea va continuamente spiegata, mentre l'opera del passato, quando era contemporanea e anche adesso, ha comunque degli elementi di aggancio immediato per cui lo spettatore si riconosce immediatamente. E anche adesso, io adesso insegno all'università Ulm, che non è un'università musicale, teatrale, ma di tutt'altro ampliamento, però nell'ultimo anno delle 5 incontrano storia del melodramma, e io pensavo che fosse un discorso soprattutto linguistico-culturale, invece, come hanno scritto in un'esercitazione due mie allieve, avevamo paura, non sapevamo come accostare l'opera, invece ci siamo accorti che l'opera parla di noi. Ecco, e quanto pesa il fattore dell'interpretazione, sul quale pure lei si sofferma nel suo libro, in questa trazione dell'opera lirica? Ah, moltissimo, in fascino e in credibilità. L'opera eseguita male viene riconosciuta da chi ha o una capacità enorme di intuizione o una forte esperienza, per cui ne fa un'occasione di ripasso, ma ci vuole il fascino dell'interprete, la capacità di vivere lo spazio, il tempo, i silenzi, le note naturalmente dell'opera, e deve essere un cantante meraviglioso se può, ma se no almeno autentico. Quindi secondo lei l'opera italiana ha ancora un futuro brillante? Ma bisogna cominciare a pensare, e lo devono pensare gli autori prima di tutto, ma anche i direttori e i registi, che l'opera del futuro non è la ripetizione o la continuazione senza soprassalti dell'opera del passato. E forse l'opera italiana sta già continuando e vivendo la sua vita in teatri che non conosciamo, in personaggi e modi di esprimersi che diventeranno classici quando li avremo benedetti con la nostra approvazione, comprensione e col nostro mito della cultura, che adesso viene portato invece a giustificare i prodotti che devono nascere, ma che invece è una riflessione che avviene dopo la rivelazione della vita. Bene, grazie a Lorenzo Arruga, autore del Teatro d'Opera Italiano. Questo Mozart lo avete ascoltato nell'esecuzione di uno dei più grandi pianisti, Lang Lang, giovanissimo cinese di straordinario successo, il quale pubblica la storia della sua vita, che si intitola appunto La mia storia. L'ha scritto questo libro con David Ritz, è pubblicato sempre da Feltrinelli, 266 pagine, 17 euro, ed è tradotto da Laura Nulian. Lang Lang, dicevo, è una delle grandi rivelazioni pianistiche degli ultimi anni. È nato nel 1982 e ha cominciato a suonare all'età di 3 anni in una Cina che si riprendeva appena dalle follie della rivoluzione culturale, che aveva pesantemente colpito la sua stessa famiglia, famiglia nella quale gli interessi musicali e artistici erano fortemente coltivati. Il padre infatti voleva diventare lui stesso un pianista, e quindi educa il figlio, lo sottopone a una disciplina veramente massacrante, e i risultati sono che appunto Lang Lang diventa uno delle star del pianismo internazionale. A un certo punto col padre si trasferirà a Pechino per frequentare il conservatorio, come racconta nel suo libro, e saranno, dice, degli anni veramente duri, anni nei quali Lang Lang e il padre assaporano veramente la povertà. Poi cominceranno i concerti negli Stati Uniti e là finalmente si accorgeranno di poter abbandonare quella che Lang Lang chiama la soglia di povertà nella quale vivevano in Cina. Oggi, dicevo, Lang Lang è una star, ma non ha dimenticato la Cina, i grandi problemi che l'affliggono, cerca di dare una mano con un impegno anche per esempio nel campo ambientalistico, e si pone il problema anche in questo libro del futuro della musica classica. Si pone questo problema all'interno della sua vita, una vita turbinosa che gli fa girare tutto il mondo e che gli dà modo però di riflettere su quello che può essere appunto la funzione futura della musica colta, come confermano queste righe del libro che adesso vi propongo. La mia vita è confinata in aerei, alberghi, sale da concerto. Siccome la musica classica è sempre stata prodotta nelle città e il suo pubblico è sempre stato costituito in prevalenza da persone istruite e benestanti, vivo nei centri urbani più ricchi e progrediti di tutto il mondo. Vedo Dallas o Stoccolma dal finestrino di un'auto. Mi arrivano fugaci immagini di cartelloni pubblicitari e di pedoni e non posso fare a meno di interrogarmi sul resto del mondo. Cosa succede nei paesini e nelle campagne? Quando ero bambino mi era difficile vedere un mondo al di là della musica, precisamente perché la musica era il mio mondo. Ma adesso che sono uscito dal mondo, mi viene da chiedermi cosa ci sia là fuori, oltre agli hotel di lusso e ai ristoranti rinomati. Non posso dimenticare da dove vengo, non posso dimenticare la povertà, la solitudine. Quei primi anni a Pechino mi hanno formato. Quando i critici mi accusarono di essere troppo ambizioso e troppo smanioso di apprendere, mi consolai pensando che se non fosse stato per il suo desiderio di mangiare bene, Mozart, tanto per fare un nome, non avrebbe mai scritto tutto quello che ha scritto. Così faccio quello che posso. Ogni volta che sono in una città per più di un giorno o due, tengo qualche masterclass, oppure organizzo concerti per bambini, per cercare di preparare e stimolare una nuova generazione di amanti della musica classica. Il confettino. Versione ormai natalizia per questo appuntamento con i libri per i più piccoli che rimangono in tema. Vi propongo infatti Musica, scritto e illustrato da Alicchi e tradotto da Rita Valentino Merletti per Il Castoro, 48 pagine, 18 euro. Questa è una bella e allegra introduzione alla musica per capire che cos'è, come si suona, chi la suona. Naturalmente si parla di tutta la musica, non soltanto di quella classica, ma anche del jazz, del pop. E il libro quindi si presenta ricco di spunti ed illustrazioni dal quale anche i genitori, sono sicuro, potranno imparare qualche cosa. Un libro tira l'altro. Ben ritrovati con Salvatore Carruba. L'altro appuntamento milanese che vi segnalo è la mostra che è in corso a Palazzo Marino del San Giovanni Battista di Leonardo da Vinci, che proviene dal Louvre. Questa mostra porta a Milano un solo quadro, appunto, un capolavoro eccelso di Leonardo da Vinci che, secondo alcuni critici, fu concluso proprio a Milano tra il 1509 e il 1510. Poi il quadro seguì Leonardo da Vinci, ebbe varie peripezie ed era anche già tornato 70 anni fa a Milano nel 1939 in occasione di una mostra alla Triennale, e naturalmente questo appuntamento non mancherà di suscitare di nuovo l'entusiasmo dei milanesi e non solo. Ma sentiamo Marco Carminati sull'importanza di questo appuntamento. Buongiorno Marco. Ciao Salvatore. Milano in questi giorni ospita un quadro di Leonardo, un Leonardo da Vinci che viene dal Louvre. Non è la Gioconda naturalmente, ma si tratta di un quadro altrettanto importante, il piccolo San Giovannino che Leonardo realizzò nell'ultima parte della sua vita, che rimase nella sua casa proprio gli ultimi anni, nella casa francese, negli ultimi anni di vita di Leonardo, e che poi passò per varie avventure, passaggi, viaggi, eccetera, nelle collezioni del re di Francia, e adesso si trova a Milano per un mese, fino al 27 di dicembre, a Palazzo Marino. Questo quadro ha avuto, tra le altre vicende che sono di carattere iconografico, di tentativo di identificare la strana ambiguità di questo volto, anche una storia di movimentazioni particolari, perché appunto è finito in Inghilterra, poi è ritornato in Francia, insomma ha avuto una grande attività di movimento. Ecco Marco, non scappare, fermati un momento, perché proprio di viaggi delle opere d'arte si parla nel tuo ultimo libro, Il David in carrozza. Questo sport di scarrozzare le opere d'arte in giro per il mondo, quindi non è uno sport recente ed è stato anche uno sport molto praticato. Ah no, non è affatto recente, addirittura abbiamo delle meravigliosi rilievi degli Assiri, abbiamo le documentazioni nell'Egitto dei faraoni, in cui appunto il trasporto delle opere d'arte, in quel caso delle sculture oppure degli obelischi, era una delle imprese più importanti che si potevano realizzare a quei tempi, mettendo a frutto naturalmente forza umana e qualche rudimentale tecnologia per muovere pesi enormi. Uno dei capitoli più impressionanti del tuo libro riguarda i trasferimenti delle opere d'arte per metterle in salvo dalle guerre, compresa l'ultima guerra, la seconda guerra mondiale. Sì. Ecco, c'è qualche elemento particolarmente gustoso che vuoi ricordare? Beh, intanto naturalmente questo fu un momento molto drammatico, che però mise a nudo le capacità e il coraggio di alcuni funzionari, soprattutto italiani, che sono rimasti negli annali di queste storie, in particolare Pasquale Rotondi, di Gian Alberto Dell'Acqua, che misero in salvo, mettendo in pericolo la loro vita, i capolavori delle pinacoteche di Brera, delle pinacoteche di Bologna, dei musei di Roma, il tesoro di San Marco, perché durante la guerra appunto vennero fatti rocamboleschi viaggi di notte con camion trovati all'ultimo momento per portare sempre verso nord, soprattutto durante l'ultima guerra, le opere d'arte, perché l'invasione tedesca e naturalmente la guerra che era in atto sul nostro territorio mise in gravissimo pericolo le opere d'arte. Nel penultimo capitolo del tuo libro tu parli delle mostre, la cui mania è esplosa in questi ultimi anni e che danno vita solo in Italia pari a 2,5 milioni di spostamenti all'anno. Ecco, come mai in un momento in cui la gente si muove sempre di più c'è questo bisogno di portare le opere dalle persone e non viceversa? Probabilmente perché la necessità, cioè, intanto la mostra si è rivelata uno dei momenti di maggiore attrattività, quindi bellissimi musei che hanno delle collezioni meravigliose ma che non realizzano una campagna di mostra, poste spesso vedono i loro visitatori o ridotti a un numero sempre costante o, ahimè, calante. Quindi questa è diventata un motivo di economia della cultura, uno dei punti fondamentali dell'economia della cultura, naturalmente con un grande dibattito sull'opportunità o meno di privare i musei di opere per portarle in altri paesi, eccetera. Però dal punto di vista del trasporto è risultato abbastanza chiaro che oggi si è talmente accurati in questo settore, le aziende che lavorano, naturalmente quelle serie che lavorano in questo settore, sono talmente intente alla salvaguardia, alla tutela di questi oggetti, che hanno messo in campo delle garanzie straordinarie, per cui oggi paradossalmente le opere d'arte sono quasi più in pericolo all'interno dei musei che non durante il viaggio. Infatti le statistiche fanno vedere che i danni maggiori sono fatti da squilibrati o in momenti appunto di stasi dell'opera e non tanto durante il trasporto. Ecco, fermiamoci su questo aspetto dell'accuratezza. Come mai allora ogni tanto si legge di clamorosi rifiuti di concedere opere d'arte? Vittorio Sgarbi in particolare si è scagliato contro una tendenza estremamente conservatrice di alcuni personaggi a proposito di alcune opere. Beh, questo qui naturalmente è un punto di vista di chi ha naturalmente la tutela delle grandi collezioni, no? Le grandi collezioni sono un insieme di opere d'arte molto importanti, tra l'altro la gestione è complicata, spesso queste istituzioni, soprattutto quelle dello Stato, vivono con fondi limitati, però dall'altro canto c'è questa idea che queste siano delle cave, delle miniere, dalle quali cavare con una certa libertà e una certa disinvoltura le opere che servono per le mostre. Ora, è chiaro che bisogna stabilire quando più o meno è bene che l'opera si muova. Se l'opera finisce in una mostra molto importante, decisiva, di grande interesse scientifico, questo è possibile. Se la mostra può rappresentare un importante volano turistico per il nostro paese, per esempio mandare un grande capolavoro a Tokyo, eccetera, in fondo è una cosa giusta, perché là c'è un apprezzamento enorme della nostra cultura, e quindi noi poi vediamo spesso i famosi giapponesi che si aggirano nelle nostre città, ma naturalmente perché noi abbiamo in qualche modo invogliato. Quindi bisogna stabilire, credo, di volta in volta, con un po' di buon senso, quando far muovere e quando trattenere le opere. E intanto godiamoci il San Giovanni di Palazzo Marino. Grazie a Marco Carminati. Grazie a te, ciao. E il libro di Marco Carminati si intitola dunque Il Davide in carrozza, le avventure di viaggio delle opere d'arte, dagli obelischi egizi al boom delle mostre, pubblicato da Longanesi, 296 pagine, 18,60 euro. Si inaugura oggi a Milano una mostra che ha dato vita a un grande trasferimento di opere, infatti una grande mostra dedicata all'arte giapponese, si intitola Giappone, potere e splendore 1568-1868, è una mostra curata da Giancarlo Calza, che è stata organizzata dal Comune di Milano assieme a 24 Ore Motta Cultura, una società del gruppo editore di questa radio. Questa mostra è dedicata appunto agli splendori dell'arte giapponese, sono splendori molto delicati e quindi vanno frequentemente cambiati. Per questa ragione ogni mese e mezzo circa le opere verranno sostituite a rotazione, proprio perché, trattandosi di opere molto fragili, non possono essere esposte alla luce per troppo tempo. La mostra infatti sarà aperta poi fino all'8 marzo. Questa mostra affronta un periodo intorno al quale si colloca il romanzo di Rino Camilleri, Il crocifisso del samurai, pubblicato da Rizzoli, 278 pagine, 18,50 euro. Se la mostra di Milano ci dà il senso dello splendore, della grande trasformazione che avviene in Giappone in quel periodo, un periodo nel quale entra in contatto con l'Occidente, questo libro ci parla di una particolare esperienza di questo rapporto con l'Occidente, cioè la conoscenza con la religione cattolica, conoscenza che diede luogo a dei rapporti altalenanti che spesso diedero vita anche a delle autentiche persecuzioni nei confronti dei cattolici e soprattutto dei giapponesi che si convertivano al cattolicesimo. E di questo parla appunto il libro di Camilleri, un evento che avvenne nel 1637-38 e di cui vengono riscoperte le tracce e che vengono riproposte da questo scrittore, noto anche ai lettori per la sua collaborazione con alcune rubriche, per esempio sul giornale. Viene raccontata da Camilleri questa vicenda sotto forma appunto di romanzo, partendo però da dei dati storici effettivi. Un altro appuntamento, questo non più culturale, è iniziato questa settimana a Copenaghen, cioè il vertice dell'ONU sul clima. Il tema naturalmente è molto controverso, suscita grandi dibattiti, grandi ansie, grandi discussioni, grandi emozioni, e quindi per seguire anche quello che succederà a Copenaghen ci può essere utile il libro che vi propongo di Brian Fagan, che è un antropologo inglese che insegna negli Stati Uniti. Il libro si intitola Effetto caldo, come il clima cambia la vita degli uomini, ed è pubblicato da Corbaccio, 342 pagine, 20 euro, ed è tradotto da Tullio Cannillo. Come influisce il clima sulla storia degli uomini? Del tema racchiuso da questa domanda l'autore Brian Fagan è appunto uno dei massimi esperti, e qua in questo libro l'autore conferma la difficoltà dei tempi che ci attendono, dovute queste difficoltà al riscaldamento globale. Ma la questione invita Fagan va affrontata tenendo conto anche della storia, delle prospettive aperte oggi dalla ricerca e dalla tecnologia. Non è la prima volta che il mondo si riscalda, e varie volte il mondo ha dimostrato, o meglio il genere umano ha mostrato, di sapersi adeguare a questi cambiamenti climatici. Per questo Fagan studia l'andamento climatico del passato e sottolinea la capacità appunto di adattamento dell'umanità. Indica fra l'altro il rischio principale che oggi si presenta, quello della siccità, che a suo parere mette oggi a rischio già almeno 250 milioni di persone in tutto il mondo, e per questo chiama questa minaccia l'elefante della siccità. Sentiamo dal suo libro poche righe che sintetizzano l'impatto del periodo caldo medievale, quello così chiamato perché si verificò nei cinque secoli che vanno dall'800 al 1300 un forte riscaldamento, un periodo di, dice Fagan, le cui conseguenze plasmarono addirittura la storia del Medioevo. Il periodo caldo medievale è in qualche modo un fenomeno globale. Al di là di ogni dubbio, questi secoli caldi portarono enormi benefici a un'Europa che poté godere di estati calde e raccolti buoni, soprattutto tra il 1100 e il 1300, durante il cosiddetto pieno Medioevo. Quel clima più caldo e più stabile durò soltanto due o tre secoli, eppure fu un tempo sufficiente a cambiare radicalmente la storia. Prima di salutarci, segnalo soprattutto agli ascoltatori romani che in pieno svolgimento nella capitale fino all'8 di dicembre l'ottava fiera nazionale della piccola e media editoria. L'iniziativa si intitola Più libri, più liberi, si svolge all'Euro a Palazzo dei Congressi. Oggi pomeriggio, per esempio, abbiamo una tavola rotonda che mette a confronto le esperienze editoriali fra Marocco e Algeria e quelle italiane, e poi abbiamo tante presentazioni di libri che proseguiranno nei prossimi giorni. Per esempio sempre oggi pomeriggio, anzi stasera, un'altra tavola rotonda in cui si parlerà di Dante, e poi, ripeto, tanti altri appuntamenti con autori e tanti altri appuntamenti anche di tipo professionale per far capire come sta cambiando il mondo dell'editoria. Trovate l'elenco di questi appuntamenti per i prossimi giorni sul sito www.piulibripiuliberi.it. E con questo ringrazio Vittorio Mussini in redazione e Paolo Corleoni in regia. Vi ricordo il nostro indirizzo di posta elettronica, unlibro@radio24.it. Vi do appuntamento a domenica prossima e vi auguro buona settimana.